E allora buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Questa sera una nuova puntata, qualche minuto di ritardo, nuova puntata di Entropia Massima. Scienza e potere, il tema dell'anno. Questa sera in prestito da Libera Scienza e Libero Stato a Emergenza Zero si parla con Lorenzo e Jacopo di rifiuti, campo in cui il collegamento tra scienza, potere, gestione del territorio su dati e dati di fatto, analisi e tecniche e tecnologie è ovviamente molto molto molto stretto. In radio se ne è sempre parlato, sempre ce ne siamo occupati. Vediamo di fare un po' un quadro della situazione di Roma e poi anche in particolare con un collegamento con Alessandro della Valle del Sacco ci spostiamo per vedere un po' la situazione della zona di Colleferro. Quindi passo la parola ai nostri presi in prestito e quindi a Lorenzo su una breve introduzione sull'argomento. Bene, bene, come sempre, cari fratelli e sorelle, cari compagni e cari compagni, qui cerchiamo di dipanare delle matasse di cui neanche poi saremmo troppo competenti. Chissà che ci hanno chiamato questi amici di Geologia Senza Frontiere in quanto geologi, fisici o in quanto monnezzari. Mai lo sapremo, però comunque ci siamo fatti come tutti. Noi ci facciamo da abitanti della metropoli, come si dice nei nostri spazi sociali, domande sul perché ogni tanto la città si riempie di monnezza. È un tema molto completo perché c'è questa difficoltà, sono state scritte pagine e pagine su questo argomento e c'è effettivamente una crisi dei rifiuti che coinvolge l'intera città di Roma e non solo, nel senso, se vogliamo, a livello mondiale questa roba dello scarto dell'attività umana diventa sempre più pressante, sempre più difficile da sostenere, difficile anche da affrontare, ed è una cosa difficile pure da concepire dal mio punto di vista, caro comandante Jacopo. Quindi oggi faremo una trasmissione un po' interlocutoria. Buonasera cercando a tutti. Se pensiamo che ci sta nel Pacifico un'isola di plastica che copre una superficie pari a quella della Francia, comunque il grande vortice pacifico di plastica, si capisce come il problema della gestione del nostro scarto, intendendo per il momento, inizialmente possiamo intendere quello scarto, quello che buttiamo, così è una questione che coinvolge l'intero globo terracqueo. Tuttavia a Roma negli ultimi anni, in Italia e anche a Napoli, insomma, come abbiamo visto qualche anno fa, e a Roma negli ultimi anni questo problema assume proporzioni enormi, catastrofiche, che ci coinvolgono tutti quanti, che siamo costretti a anche in interminabili discorsi e magari non abbiamo completamente la cognizione di causa e non ce l'avremo manco dopo questa trasmissione, questo è chiaro. Tanto per fare un esempio, caro comandante Jacopo, e per non parlare subito di Roma, uno dei problemi più grossi per cui l'Italia credo che paghi 121 milioni di euro, 120 milioni di euro di multa, 120 mila euro al giorno, e che è costata non so quanti milioni di euro già così, è la famosa, la vecchia emergenza rifiuti in Campania, che ha condotto alla creazione di un enorme deposito di ecoballe. Magari qualcuno se lo ricorda questo termine, ecoballe che coprono una superficie immensa di svariate decine o se non centinaia di ettari in qualche parte in Campania e che non è mai stata risolta e per la quale l'Italia paga una multa mensile come infrazione dell'Unione Europea e che la cui enorme mole di queste enormi balle vere e proprie di monnezza indifferenziata, e questo introduciamo un primo termine che ci riguarda, di monnezza indifferenziata, verranno smaltite a lotti, ci vorranno anni, forse decenni, da ditte con gare di evidenza europea, verranno per esempio un primo lotto piccolissimo rispetto alla mole enorme, verrà portato in Portogallo. Dicevamo prima, chiacchierando qui sotto, che una delle caratteristiche del rifiuto, dello smaltimento, quindi della messa del rifiuto, cioè la parte di monnezza che non si può riutilizzare in un posto, dovrebbe avvenire per logica, anche per legge europea, nel posto più vicino a dove è stato prodotto. E da qui partiamo con la situazione romana. Quindi se facciamo delle considerazioni da quartiere. Sì, sì, sì, soprattutto da quartiere, perché comunque è proprio un problema di quartiere. Siamo viviamo tutti a Roma e questo problema ce l'abbiamo sotto gli occhi da ormai da mesi e mesi, senza considerare proprio il problema che al di là del fatto di lasciare rifiuti e non essere trasportati via dai cassonetti, questo può generare anche un problema di sanità pubblica, un rischio proprio importante. Ovviamente è un problema. Io per Roma non sapevo, io da poco che vivo a Roma, ma quando sono venuto a conoscenza del fatto che Malagrotta era stata chiusa, chiedevo se c'erano altre discariche, c'era quella di Colleferro che poi a sua volta è stata chiusa, uno capisce bene, dice, ma com'è? Cioè una città, la capitale, con più di 4 milioni di abitanti, e i rifiuti dove vanno? Dove è un problema enorme. Ci siamo accorti, vivendo quotidianamente, che sono aumentati anche a dismisura il numero di cassonetti, togliendo anche e soprattutto posto parcheggio alle macchine. Io mi chiedevo come mai. E questo è poi una spiegazione, forse è giusta, me la sono data, perché ovviamente non riuscendo a smaltire in maniera adeguata l'immondizia che viene prodotta, un maggior numero di cassonetti forse ti consente di per esempio di fare meno passaggi, no? Di raccolta. Sì, pure, ci si rende conto, no? che Roma è piena di cassonetti, piena proprio, cioè uno ogni 15 metri, è possibile anche, io sotto casa mia ce n'ho, nell'arco di 10 metri ci avrò 8 cassonetti. E infatti il problema poi dei cassonetti, tra caro comandante Jacopo, è tutta una questione pure romana. Comunque, tanto per fare un attimo il punto, poi interrompermi se divento un rompiscatole, però tanto per fare il punto, attualmente la quantità di rifiuti giornaliera prodotta è 4.600 tonnellate al giorno. L'Amara dovrebbe raccogliere 4, cioè i romani producono 4.600 tonnellate. Questa quantità anno dopo anno in realtà non sta diminuendo, totale, di rifiuti totali, quindi differenziati, non differenziati, siamo ancora a monte, e questa quantità in questi ultimi anni aumenta costantemente, non in modo eccessivo, però aumenta, quindi non vengono, i romani continuano, compresi noi negli spazi sociali, continuiamo ad aumentare la quantità totale di rifiuti. Come è andata prima, no? Tu hai citato Malagrotta, come è andata? Nel 2008 la Regione Lazio fa un primo piano di rifiuti che era in ritardo dal 1999, fino ad allora. Nel 2007 la raccolta differenziata, cioè la separazione dei rifiuti, cioè quella parte che non viene più riutilizzata e la parte di scarto che invece può costituire una percentuale riutilizzabile in qualche modo, anche attraverso trattamenti, così era al 14%. Però c'era Malagrotta. Allora, Malagrotta era un'area di 160 ettari, enorme, quindi gigantesca, sita nella Valle Galeria, posta lì, di proprietà del consorzio Colari, di proprietà del CRAS, del boss, del totale protagonista assoluto della monnezza a Roma, che conoscono tutti, Manlio Cerroni, è un altro personaggio che si è sempre occupato di immondezza, proprietario dei terreni di Malagrotta, che cominciano a essere utilizzati nel 74 dal centro carni, così. Comunque nel 1985 la discarica di Malagrotta diventa operativa. Va tutto bene per tutti i romani, questa roba qui dei rifiuti, come dice qualcuno, non se ne sente parlare volentieri, no? Cioè, in fondo è come se uno stesse a guardare quello che produce, non ce ne importa niente, quindi per tanti anni va avanti così. Il problema non c'è, perché tanto ci sta una discarica, un enorme buco, come lo definiva Raimo sull'Internazionale, un enorme buco dove buttare tutta la cosa. A Napoli qualcuno mi ha detto la coscienza nera di Napoli, capito? Tu butti tutto lì e non ci pensi. O come un buco nero. Esatto, come un buco nero, butti tutto lì e non ci pensi più. La Malagrotta oltretutto non invogliava, e questa era la questione dei grandi cassonetti, Malagrotta non invogliava, la presenza di Malagrotta e la presenza di questo enorme scomodo socio occulto, più o meno occulto, del Comune di Roma nella gestione dei rifiuti, che è questo signor Manlio Cerroni con tutte le sue ramificazioni e tutte le sue società, non favoriva l'innesco di una grande differenziata. E come? Da una parte i rifiuti sono una questione dei soldi, no? Dei soldi, no? Tu produci immondezza, la discarica, gli dai i soldi per smaltirla. E quindi lui aveva tutto un interesse a mantenere il monopolio assoluto sui rifiuti. Allora che faceva? Faceva per descrivendosi tra l'altro come un grande benefattore di Roma, si faceva un prezzo assolutamente bassissimo per ricevere i rifiuti della città di Roma così com'erano. Attraverso delle sue controllate, di cui faceva parte il Comune di Roma, cercava di boicottare o comunque di direzionare le politiche romane verso la raccolta da strada da cassonetto grande, dicendo: noi abbiamo la tecnologia attraverso i nostri impianti di trattamento, i famosi TMB, trattamento meccanico biologico, di gestire il rifiuto in grande, di separarlo noi, quindi non c'è bisogno di spingere la differenziata porta a porta, la differenziata a cassonetto multiplo per strada, non c'è bisogno, perché in realtà noi attraverso la nostra tecnologia, nostra di proprietà, siamo in grado di gestire questi grandi quantitativi. In questo modo qui Malagrotta, fino a che non ha chiuso, e ha chiuso nel 2013 con la giunta Marino, fino a che non ha chiuso è intervenuta diretta, è stato uno degli attori della politica romana sui rifiuti, drogando in qualche modo il mercato dal punto di vista economico e influenzando attraverso cose che sono finite pure in tribunale, in particolare la CTR, la società del 50% pubblico, 50%, 49% di proprietà di Mario Cetroni, influenzava le politiche di scelte, le scelte, il coso. Quindi la raccolta differenziata in realtà in quegli anni non è mai stata favorita, non è mai decollata, e i rifiuti in discarica ci arrivavano pure senza trattamento. E tutto quanto un po' si è rotto quando c'è stata l'infrazione europea, perché i rifiuti in discarica non possono arrivare senza trattamento preliminare, e quando poi finalmente Marino, in questo bisogna dare atto, dopo anni di proroghe, ha deciso di chiudere. Il fatto è che è stato fatto senza alternativa. E allora sì, direi che facciamo brevissima pausa, durante la quale chiameremo il nostro contatto, e ci sentiamo Ota Vaglio, un folk russo direttamente da Leningrado, e per dare questo il benvenuto alla piccola Iskra, che sia scintilla rivoluzionaria anche lei. Кто там едет? Посмотри, на хромой да на кобыле, это наши сковори. Сковори, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Вы сыграйте мне такого сковоря потешного, чтобы брюхо не болело у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякие сопленосы перед нам не прыгали. голову побыть. Мы с товарищем дрались. Ой, товарищ мой орел, да чего ж меня довел? Довел до леса темного, до домика казенного. Поигрались, подрались, все придется посидеть. За железную решеткою на волю поглядеть. Петроградская тюрьма с поворотом лесенки. Мы с товарищем сидели, распевали песенки. Мы так живот будет болеть. Пускай люди про нас судят, веселей будет сидеть. И allora eccoci di nuovo in diretta. Entropia massima. Libera Scienza in Libero Stato, parliamo di rifiuti questa sera e abbiamo in collegamento Alessandro da Colleferro, Alessandro Coltrè, giornalista e attivista della Valle del Sacco. E ci sei Alessandro? Sì, buonasera. Eccoci. Allora riprendiamo la discussione dove l'avevamo lasciata con Jacopo. Buonasera Alessandro, buonasera. Buonasera. Io volevo fare una considerazione prima parlando sull'andamento che c'è stato sullo sviluppo dei processi di differenziazione dei rifiuti. Come aveva accennato Lorenzo prima, all'inizio nel 2007-2006 si faceva tipo il 14% differenziata, poi vedendo i grafici, questo è un grafico che ho sotto gli occhi di una stima dell'AMA. Mi sento un po' basso. Mi senti? Vedendo ecco, appunto, ora mi sento meglio. Vedendo gli andamenti di come si è sviluppata la differenziazione dei rifiuti dal 2007 ad oggi, al 2018 stima AMA, questo dicevo, sto vedendo dei grafici dell'AMA, si è passati da un 16.9 nel 2007, piano piano una differenziazione che è andata crescendo negli anni, 4%, 5%, il 6% nel 2012, il 12% nel 2013, fino ad arrivare più o meno a un plateau, perché poi vedo che qui nel 2015 si ha il 29% differenziata, il 41% differenziata, nel 2016 il 42,9% e poi nel 2017 il 44,3% fino al 2018 che è un 45,4%, l'ultima stima AMA del 2019 è del 45,5%. Comunque negli ultimi, diciamo, 4-5 anni c'è stato un assestamento lungo questa percentuale, quindi non è aumentata di granché, quindi no, significa che c'è una specie di impasse e, sì, e tanta parte appunto dell'indifferenziato è andata a finire pure nella discarica di Colleferro. Ora, siccome tu sei impegnato in prima linea, sei stato impegnato rispetto appunto alla discarica di Colleferro, ecco, ti volevo chiedere cosa ne pensi, ecco, e perché non viene, c'è questo impasse, ecco, c'è questo plateau, non aumenta, ecco, la differenziazione dei rifiuti a Roma. Sì, sicuramente non aumenta e resta ferma quella percentuale per due motivi. Uno, prima di tutto, è che non c'è la raccolta porta a porta, e l'altro motivo è legato soprattutto a un altro fatto, il fatto che Roma non ha impianti in grado di riciclare. E poi banalmente una cosa che va all'occhio a tutti, prima voi parlavate dei cassonetti, oltre ad essere aumentati i cassonetti di Roma hanno il classico cassonetto nero, quello dove di fatto si creano delle mini discariche in cui dentro troviamo i rifiuti sia differenziabili, il rifiuto umido e il rifiuto indifferenziato. Sia alcuni rappresentanti dell'ISPRA diversi anni fa, ma anche lo stesso Daniele Fortini, che è stato anche uno degli amministratori delegati di AMA, ha detto più volte che dentro quel cassonetto nero, da quel cassonetto potrebbe uscire tantissimi materiali riciclabili o che potrebbero andare a raccolta differenziata. Quindi uno degli ostacoli più grandi che è a Roma è proprio la modalità, la raccolta stradale e il fatto che non riesce ad avviare il porta a porta. Allora, il porta a porta però si dice, io ho sempre pensato che a Roma il porta a porta è abbastanza impossibile perché è super urbanizzata, sì. Ci sono quartieri intensi. Poco ora. Voglio dire, il porta a porta, io ho sentito sempre dire questo, a parte il centro storico, che è abbastanza irrealizzabile perché per il numero di abitanti, per la difficoltà che l'AMA avrebbe nel gestire un porta a porta nei quartieri più popolosi romani. Sì, tu dici per specificità di alcuni quartieri è vero sicuramente, però esistono tantissime realtà grandi quanto Roma che riescono a raggiungere livelli di differenziata molto alti. Negli anni passati soprattutto il movimento Rifiuti Zero ha fatto spesso riferimento all'esempio di San Francisco, che ha adottato la strategia Rifiuti Zero e ha adottato di fatto in molti quartieri il porta a porta. E sicuramente è una realtà complessa Roma. È anche vero però che in questi anni non è stato fatto nulla né per la riduzione e né per quanto riguarda quello che dicevo prima, cioè per la situazione impiantistica. Mi è capitato più volte dire che mentre il PMB salario continuava a riempirsi, le due grandi forze politiche, cioè PD e Movimento 5 Stelle, come proposta hanno fatto il PD, sono scesi in strada con le ramazze gialle la domenica mattina a liberare le aiuole e il verde dall'immondizia, e i 5 Stelle hanno fatto degli opuscoli sull'abbandono dei frigoriferi. Diciamo che le risposte politiche all'emergenza rifiuti sono state solo sull'abbandono dei rifiuti, sul decoro e non su una visione politica. E anche i 5 Stelle, che fanno una bandiera, come sappiamo, il no agli inceneritori e soprattutto insomma no alle discariche e quant'altro, più volte, soprattutto per quanto riguarda la mia zona, si sono espressi a favore sia della riattivazione degli inceneritori sia dell'utilizzo della discarica di Colleferro. A proposito, San Lorenzo, ciao Alessandro, a proposito della tua zona, ci racconti questa che cosa è mutato? Mi sentite? Io ti sento bene, tu mi senti? Eccomi, adesso mi senti? Non ti sento. Sì, ora meglio. Sì, sì, no, che non stavo dove andavo, mi sentivo male pure io. Se ciao, sono Lorenzo. Ti volevo chiedere, hai fatto riferimento, ti sentivamo perfettamente, prima. E non sentivi tu me. Hai fatto riferimento correttamente e giustamente alla tua zona, alla vicenda, l'intera vicenda di Colleferro. Vabbè, insomma, non l'intera, no, perché sarebbe complessissimo. Però, rispetto alla vostra recente battaglia. Colleferro è stata fondamentale, penso, negli ultimi anni per gestire una parte del rifiuto romano, e quindi avete accettato nella zona non so più di 1200 tonnellate al giorno, mi pare di ricordare, in certi periodi almeno. E invece adesso, da gennaio se non sbaglio, la discarica è chiusa e grande parte per questa chiusura ce l'ha avuta l'attivismo vostro e non solo, immagino. Ci racconti un po' questa esperienza e poi dopo ti faccio un'altra domanda. Sì, scusa, non ho capito la domanda, che mi sento molto basso. La domanda è se ci racconti un po' l'esperienza della vostra di opposizione e di vittoria poi con la chiusura della discarica di Colleferro da gennaio. Sì, quello che è accaduto a Colleferro, a gennaio c'è stata la manifestazione, per noi è stata una festa di chiusura perché dopo la fine dell'ordinanza della Regione Lazio c'è stato lo stop definitivo ai carichi di rifiuti provenienti per lo più da Roma, che quello è un tassello che fa parte di una battaglia molto grande fatta soprattutto dal movimento Rifiutiamoli, che riunisce tante associazioni. La nostra opposizione nasce da 20 anni a questa parte ed era netta al business dell'immondizia incentrato su discarica e inceneritori. La lotta più grande è stata fatta con gli inceneritori di Colleferro, perché sull'inceneritore di Colleferro, sulle due linee di inceneritori, c'erano gli investimenti, c'erano già i soldi per fare il cosiddetto revamping, parola tecnica che significa appunto l'ammodernamento degli inceneritori. Era tutto pronto e invece 2 anni fa abbiamo bloccato fisicamente i camion all'ingresso del quartiere a Colleferro Scalo, è nato poi successivamente un presidio che dura tuttora, perché anche sede di dibattiti, di associazionismo, di incontri sull'ecologia, cambiamento climatico, e di fatto abbiamo stoppato una realtà che era pronta ad essere attivata, e mandando in fumo anche soldi, denaro, investimenti, ma facendo ripensare politicamente anche la Regione Lazio sulla tecnologia degli inceneritori. Questo è stato possibile ovviamente perché abbiamo camminato, ognuno ha camminato da sé, i movimenti hanno camminato con le proprie gambe, l'amministrazione che è stata anche eletta, perché ha dato delle parole molto radicali su questo, e alla fine il risultato è stato comune, cioè siamo riusciti ad ottenere la chiusura degli inceneritori. Sulla discarica invece noi, dopo diverse osservazioni sul materiale in entrata e quant'altro, abbiamo messo come diciamo movimenti uno stop, dicendo che non sarebbe stato possibile nessun altro tipo di proroga, perché in discarica in realtà c'erano ancora delle volumetrie disponibili, parliamo di pochi mesi, sarebbero arrivati comunque fino a marzo, aprile i rifiuti romani, perché poi fisiologicamente la discarica avrebbe comunque finito lo spazio, però per noi era importante ribadire un no netto e arrivare alla chiusura appunto a gennaio, che in realtà era prevista il 31 dicembre 2019 con la fine del contratto con la società Lazio Ambiente, la società regionale. Poi c'è stato diciamo il solito delirio romano e c'è stata una proroga di 15 giorni, e finita quella non c'è stata più nessun'altra proroga, e ora inizia la cosiddetta fase del post mortem, è la fase in cui bisognerà diciamo mettere in sicurezza il sito e terminare anche così l'era con le Fagiolara. Ovviamente il territorio su quella parte resta compromesso, infatti tecnicamente i tecnici lo dicono spesso, non si parla di bonifica di una discarica, ma appunto di messa in sicurezza, di effettuare il cosiddetto capping, cioè la copertura della discarica, capping che in realtà avrà forse alcuni problemi come a Malagrotta per il completamento, però ecco, noi quello che abbiamo chiesto alla regione, anche al comune, è quello di fare una serie di appuntamenti istituzionali con i cittadini per essere aggiornati sulle operazioni. Tra l'altro, caso assurdo, a Colleferro, dopo l'apertura della discarica degli anni 90, di fronte è stata trasferita un istituto superiore professionale, e questa è stata una, secondo noi come movimenti ma come cittadinanza, uno insomma delle cose più assurde, uno degli stregi più grandi, quello di esiliare intere generazioni vicino a una discarica. Alessandro, scusa, ti faccio una domanda. La domanda che penso possa venire in mente a chi ci ascolta, a chi non se ne occupa di queste cose, una domanda secondo me anche abbastanza legittima da uomo della strada. Insomma, il problema a Roma dei rifiuti c'è. Cioè, è un problema che ovviamente, anche se ne vogliamo parlare in maniera più generale, ovviamente possiamo anche ricondurlo ai tenori di vita occidentali, che dovremmo consumare meno. Lorenzo prima citava la plastica in Oceano Pacifico, ma c'è anche il problema della plastica nel Mediterraneo, siamo i secondi produttori dopo la Cina di plastica, poi la plastica l'abbiamo inventata noi italiani, quindi ne produciamo a iosa. Però dice, uno può pensare questo, ok, i rifiuti ci sono, bisogna incentivare la differenziata, però c'è sempre una parte che è indifferenziata. Allora, sono due a oggi le soluzioni che possono essere proposte: o una discarica o un inceneritore. Io ti faccio questa domanda, ovviamente voi ci avrete ragionato molto a lungo rispetto a questo, al di là di Colleferro, ovviamente. Cioè, tu dici il ciclo dei rifiuti, insomma, ecco, come chiudere. Pensa che ci sia insomma come dove mettiamo i rifiuti, serve un inceneritore o una discarica? Non so, ci sono alternative, questo ti chiedo, avete pensato a come risolvere un problema dei rifiuti? Cioè, è un po' come il problema dell'energia. Cioè, l'IPCC dell'ONU dice che bisogna nel 2050 abbattere a zero la CO2 nell'atmosfera, però uno dice, come si fa? Il punto è, che fare, come diceva il buon vecchio Lenin. No, vi sento poco. Mi senti? No, mi senti bene? Ecco, io ti sento ora, bene. Ora sì. Dicevo, è un po' come il problema dell'energia. Si parla di emissioni di CO2, l'ONU dice che nel 2050 dobbiamo azzerare le emissioni di CO2 in atmosfera a livello mondiale, però ci deve dà dei suggerimenti su una transizione energetica che sembra abbastanza, anche va presa con le molle, perché è abbastanza improbabile. Ecco, allora dice: che fare? Io ti chiedevo anche con l'energia, con l'immondizia, che fare da questo punto di vista? Sì, questo devo dire che rispetto ad alcuni settori sui rifiuti, diciamo che c'è un mondo che può essere esplorato, perché più che altro è già attivo in altre realtà, ma soprattutto possiamo escludere quelle che sono alcune tipologie di tecnica che in realtà sono ormai considerate obsolete, ma non solo da un punto di vista, diciamo, per quanto riguarda la salute e gli impatti, ma anche dal punto di vista della resa. Sicuramente conoscete l'esempio dell'inceneritore di Copenaghen, che viene spesso diciamo sbandierato come soluzione, anche esempio di diciamo tecnologia che viene utilizzata in modo funzionale da paesi come nord europei, come la Danimarca. In realtà il sistema danese è in crisi, perché Copenil, questo grosso gigantesco inceneritore che è al centro di Copenaghen, in realtà ha fame di rifiuti, perché è un inceneritore molto grande che per andare avanti con una raccolta differenziata elevata è costretto a importare i rifiuti. Poi c'è tutta una narrazione che spesso viene fatta in Italia attorno a queste tecnologie, e appunto ricordo gli articoli del Corriere della Sera in cui dicevano Copenil emette solo vapore acqueo, cosa che non è vera, perché ovviamente parliamo comunque di un impianto di incenerimento, e quindi, come sappiamo, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, e abbiamo comunque dei problemi sia per quanto riguarda sostanze tossiche in atmosfera, ma soprattutto per quanto riguarda scorie, quindi le ceneri da inceneritore. E soprattutto un altro motivo, secondo me più importante, è quello politico, il fatto di connettere un'industria comunque dannosa e tossica per la città, appunto alla città stessa. Sì, e ma Alessandro, quindi alla geografia italiana, che è segnata dai siti di interesse nazionale, diciamo non prospetta come orizzonte quello di sciare sopra un inceneritore, insomma. Ma soluzioni alternative ci possono essere, secondo te? Allora, esistono esempi di impianti che trattano rifiuti a freddo e soprattutto che creano materiali materiali da rifiuti. Secondo me la soluzione più grande, ovviamente io non sono un tecnico, però un passo in avanti dovrebbe essere quello di sorpassare il modello dei TMB, perché gli TMB sono un grosso ostacolo allo sviluppo e anche alla riduzione dei rifiuti, allo sviluppo della raccolta differenziata e allo sviluppo di tecnologie differenti. Voi prima avete parlato appunto della chiusura del 2013 con Marino, in realtà poi diciamo il passaggio successivo sarebbe stato quello dei famosi ecodistretti, o comunque una strada da esplorare per ripensare i TMB. Quel tipo di programma ovviamente poi è terminato, perché è terminata la storia della giunta Marino, però in realtà il problema più grande è stato proprio quello di non avere nessun tipo di dare continuità alla questione ecodistretti, o a qualcosa che diciamo potesse ripensare i TMB di Roma, perché ad oggi i TMB romani sono degli impianti che producono altri rifiuti. Altra questione assurda secondo me è stata quella dei 5 Stelle di non aprire in nessun caso all'impiantistica. Questa è stata una delle scelte più ciniche che Roma Capitale ha fatto, perché Roma Capitale 1 per esempio ha degli impianti di incenerimento a San Vittore. San Vittore, provincia di Frosinone, brucia praticamente rifiuti romani. Colleferro stesso fino a 2 anni fa bruciava rifiuti prevalentemente di Roma. E stessa cosa per quanto riguarda le discariche, al di là di quelle della provincia di Roma, diciamo Roma le manda anche in Abruzzo, le manda nelle Marche, e secondo me politicamente questa scelta di non progettare un ciclo di rifiuti diverso e di dire solo no agli impianti, non parlo di inceneritori e di scarico, agli impianti, e quindi a una progettazione tecnologicamente avanzata, è stato politicamente sbagliato. E l'altra cosa secondo me è la troppo protagonismo dell'imprenditoria sul settore dei rifiuti e invece il poco protagonismo della politica su questa questione. Secondo me voi avete parlato spesso di Cerroni, e infatti la cosa assurda secondo me è proprio che Cerroni è ancora un attore a 94 anni, con tutto quello che è stato il re della monnezza, è ancora il protagonista indiscusso di questa questione. E poi ci sono altri ras della monnezza, soprattutto fuori la provincia di Roma, e parlo per esempio di Fabio Altissimi, che è un imprenditore che gestisce l'impianto di TBM, non TMB ma TBM di Rita Ambiente, che tra l'altro, notizia che è passata un po', diciamo nessuno ne ha parlato, ma due anni fa Rita Ambiente mandò una lettera al Comune di Colleferro per smontare gli inceneritori di Colleferro e riattivarli ad Aprilia, segno che gli imprenditori cercano di rimanere i protagonisti del ciclo dei rifiuti, mantenendo lo status quo o a volte anche lo status che c'era prima. E secondo me la miopia politica è stata proprio questa, quella di invece non immaginare uno scenario differente. E anche tutti i discorsi che si fanno a volte nelle assemblee politiche, intendo insomma nelle kermesse, anche dove ci sono persone importanti, anche col ministro Costa, si parla solo ed esclusivamente dell'immondizia che trasborda fuori i cassonetti, e mai di quello che stiamo facendo noi per esempio adesso, cioè dell'impiantistica. Questo secondo me è stato un nodo grave, e non raccontare l'emergenza rifiuti non solo dal punto di vista del decoro, ma anche dal punto di vista sia politico degli impatti che ha avuto. Io dico sempre, se sentiamo qualcuno della zona del TMB Salario, non dirà mai che l'emergenza rifiuti è sono i cassonetti pieni, ma ti dirà, come è stato detto in quelle assemblee molto partecipate al terzo municipio, che l'emergenza rifiuti è negli ospedali e nelle file che si fanno per prendere le medicine in farmacia. Sì, e l'altra cosa, e finisco, c'è un rapporto ERAS, è un rapporto epidemiologico fatto dal Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, che ha analizzato ormai più di 5 anni fa la popolazione che vive nel Lazio vicino agli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti, quindi appunto parliamo di Malagrotta, Colleferro, Roccacencia, Salario, eccetera. Per esempio su Colleferro l'epidemiologia fotografava un aumento di malattie respiratorie dopo l'accensione degli inceneritori e un ricovero per malattie respiratorie superiore al 70%. Quello che mi domando è perché la politica non cita mai il rapporto ERAS e perché non lo rimette al centro della discussione dei rifiuti e invece antepone appunto le ramazze gialle o i depliant sull'abbandono dei frigoriferi. Intervengo soltanto un attimo prima di salutarti. In effetti, in uno degli articoli che ci hai citato lì è la mancanza totale della politica. Io abito là vicino a dove stava, lì, al Salario, me lo sono sentito un bel po' l'incendio. E quindi sono d'accordo. La mancanza totale di politica e le cose che hai notato sono senza dubbio delle cose, degli aspetti osceni, no? Quello che dicevi, anche questo no cinico che hai definito, che hai descritto benissimo, la cancellazione dell'idea degli ecodistretti, che per carità magari era sicuramente c'era avuto le sue debolezze, come c'ha le sue debolezze quella nuova, però almeno era qualcosa, no? Erano era degli impianti che non lasciava solo la chiusura della buca, insomma. Esatto, anche se ritardata, anche se avrebbe comunque creato magari una gestione. Il fatto che la politica sia carente da questo punto di vista è in dubbio, insomma. Quindi no, era per ridefinire la nostra perplessità è sempre anche di fronte a questo panorama politico e di fronte poi alle scelte possibili che possono anche gestire una transizione tra, ovviamente non è uno deve venire a Colleferro, però insomma tra la transizione tra quello che è adesso, cioè niente, e quello che potrebbe essere il 70% ipotetico, ipotizzato, di raccolta differenziata, poi le cifre le cambiano, questo percorso è complesso e c'è necessari impianti di intermedi. Assolutamente, ovviamente, anche perché altrimenti spostiamo il problema da qualche altra parte. Esatto, magari gestiti in forma partecipata, cercando di abbozzare un po' da una parte, sistemare dall'altra, in modo tale però di fronte a un piano credibile di avanzamento. Fermo restando che poi un problema sul finale c'è, io questo te lo dico da geologo tecnico di altro tipo, un problema poi per quanto puoi fare una frazione, che a quel punto lì sarebbe ovviamente non il 50%, ma sarebbe minimale, una frazione devi pensare a una discarica finale, sì, dove poi, che probabilmente è più... Anche l'economia circolare la menziona, insomma, perché c'è sempre una percentuale che resta, insomma. C'è sempre una percentuale, e più la di tu, più la frazioni, più una cosa è sempre più schifosa, insomma, è sempre più concentrata. E per quella, anche di fronte all'assenza di gassificatori, inceneritori, niente, l'unica soluzione è mettere il buco, però sarebbe un buco più piccolo. Certo, sicuramente. E più controllato anche. Comunque sì, nell'ottica sempre di non guardare solo il proprio orticello e a 2 metri di distanza, e nell'ottica di una gestione non dell'emergenza, ma di una pianificazione più a lungo termine, ma non pare che proprio non ci si riesca in vari settori che ci troviamo ad affrontare spesso qui. Va bene, ti ringraziamo molto Alessandro, e ti chiedevo l'ultima cosa, se ci vuoi dare 2 riferimenti o di iniziative future o di siti dove trovare informazioni. Sì, sui siti dove trovare informazioni sicuro trovate, non so se lo conoscete, c'è l'Atlante Italiano dei Conflitti Ambientali, uh-huh, curato dal Centro di Documentazione dei Conflitti Ambientali, che ha diverse schede anche sulla questione di Colleferro e sul ciclo dei rifiuti. Poi sicuramente, ne parlavamo insomma prima della diretta, uno degli articoli secondo me fatti meglio su questa questione è quello di Sara Graceforth su Valigia Blu. L'avevamo invitata Sara, ma c'aveva da fare. Secondo me quello, soprattutto per chi abita a Roma, è una lettura utile, visto che fa anche vedere i costi che un romano deve far fronte a un romano, e poi alla fine un servizio che non esiste, e è poi anche la mancanza di programmazione. È proprio la mancanza di programmazione è quella che ha tolto il fiato, secondo me, a tutte quelle zone di Roma, come quelle intorno al TMB Salario, fino a farlo riempire e poi insomma a far scoppiare un incendio. La cosa è 2 anni di tweet e di botte e risposte da Raggi e Zingaretti, che adesso sono anche rappresentati da un murales a Roma dove dondolano sopra i rifiuti, e diciamo che è normale lo scenario che viviamo adesso. Quello che mi domando è quando l'affronteranno politicamente questo nodo, visto che ciclicamente si finisce in emergenza e diciamo non è difficile anticipare che durante il ponte di aprile e maggio ci sarà una nuova emergenza se la situazione resta così. Anche perché Monte Carnevale non ha a livello tecnico gli stessi tecnici di Roma Capitale, e anche il Ministero della Difesa per la vicinanza all'aeroporto dicono che non è un sito idoneo, quindi la cosa è che facciamo? Il famoso che fare. Va bene, ti ringraziamo molto Alessandro, e noi andiamo in pausa, 5 minuti e poi altri 10 prima della fine della trasmissione. Di nuovo grazie a Alessandro. Ciao Alessandro, grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Yeah. на заболинке продает офицер старой валенки. Эх, яблочко, катись по бережку, раскупил товар, давай денежку, раскупил товар, давай денежку. Спекулянт, спекулянт, спекулирует, а народная власть реквизирует, а народная власть реквизирует. Erano sempre Ottava Io, sempre per Iskra, la nostra bimba piccolissima che è arrivata da pochissimo. Siamo sempre Entropia Massima, ultimi 4-5 minuti di trasmissione per chiudere il discorso sui rifiuti e ripasso la parola. Benissimo, no, giusto per fare il punto su quelle ultime cose che dicevamo prima e anche per fare riferimento all'articolo, all'ottimo articolo effettivamente di Sara Gainsford, raggiungibile su Valigia Blu, la inviteremo un'altra volta visto che oggi non è potuta venire, dove si incrociano molto bene, anche in modo, è proprio un articolo da studiare, dove si incrociano molto bene gli aspetti diciamo più tecnici e quelli più economici. A proposito di quello che diceva Alessandro sull'impiantistica, tanto per chiarire, anche se poi non è stato pubblicato il piano per gli ecodistretti, anche se poi la giunta Raggi è arrivata, ha cancellato il piano per gli ecodistretti che pure Alessandro individuava come possibile alternativa all'attuale sistema che, non l'abbiamo detto né prima né adesso, prevede che della raccolta dell'indifferenziato, cioè la parte che va nel cassonetto nero, diciamo così, finisca in alcuni impianti che vengono chiamati TMB, uno dei quali a Roma ce ne sono operativi 4, due pubblici, quello di Via Salaria che è bruciato e quello di Rocca Cencia, e due privati di proprietà sempre del ben noto Maglio Cerroni, a proposito giro di affaristica e di coso. Questi, in questi impianti in teoria viene un trattamento molto semplificato, per questo diceva Alessandro, credo, di che vadano superati, perché questi impianti non producono tanto rifiuto altrettanto, comunque producono combustibile da rifiuti, teoricamente altro rifiuto e una frazione che si chiama frazione organica stabilizzata, che dovrebbe essere utilizzata come copertura delle discariche. Come per superare questo sistema che ha vari incagli, compresa anche la capacità di smaltimento giornaliera, si pensava alla realizzazione di questi ecodistretti, che sono stati poi, quando è arrivata la giunta Raggi, cancellati da tutto quanto, perché no impianti non si fa niente, perché l'obiettivo è differenziare il 200%, e non di fronte a questa impossibilità. Comunque lo scorso gennaio AMA, dice Sara, dice l'articolo di Valigia Blu, AMA aveva annunciato delle linee guida del piano industriale 2019-2023. In questi obiettivi strategici basati su un principio di circolare, dice un'economia circolare, tutte cose con parole in inglese, comunque venivano reintrodotta la costruzione all'interno della città di quei 13 nuovi impianti, e precisamente 3 impianti per il trattamento degli scarti organici, 3 impianti